questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, buonasera, bentornati a Radio Tube. Faccio l'annuncio normale, la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile. No, per dico l'annuncio, lo sapevo che l'avresti 2015. Detto. Io siamo volevo qua. Fare un annuncio normale senza dire l'ultima puntata per questa stagione. Ma cosa c'entra? Stagione. Per questa stagione, certo. Non fai tempo ad andare a fare un bagnetto che torniamo, forse, lo so, non si sa. Lo lasciamo so, però sai, io sono così romantica. Comunque, un po' malinconica, mi vengono già le lacrime. Allora, in diretta qui a RadioTube, l'ultima volta che potete usare gli hashtag che sono RadioTube, cancelletto, gli uno, hashtag, l'hashtag sì, esatto, uno. Perché io confondo sempre hashtag e account, è una cosa proprio, vabbè. È una forma di dislessia digitale. Allora, invece gli account sono @Marta Cagnola et di Bellasio. In diretta, ma nel senso che poi invece potete usarli comunque anche dopo. Sì, nel sì, senso che mentre sono diciamo queste cose qua. Sì. Quindi il nostro in questa ultima con... settimana di che cosa parliamo? Parliamo di allora, imperdibile della rete, perdibile della rete. È scesa della la sedia, TV. Sai? È successo perché... una cosa, ho premuto qualcosa e sono sceso giù. Ma sai che di solito le sedie quando premi poi si scendono? Sì, poi non si è scende. Che... No, lo dicevo perché non ci vedono. Ah, certo. Per perché onestà. Io ho alzato gli occhi e non ti vedevo più perché eri finito sotto il tavolo. No, ma tutto bene, tutto sotto controllo, anche nell'ultima puntata della stagione di Radio Tube. Chi è il personaggio della settimana? Non lo saprei, perché allora. D'estate è difficile individuare, perché ci sono meno talk show, quindi con meno talk show sarà Salvini, sempre Salvini, no? No, questa settimana no. L'uomo che ha parlato di più nel bene ah, e nel no, male, è vero, perché è andato in sì. streaming dall'Assemblea Siciliana, poi ha fatto un'intervista sui giornali, dal balcone, non si è capito. A Radio 24 è stato ospite ah, in sì, tutte shock. Le salse, sì. ha detto delle cose shock. Crocetta. Rosario Crocetta, presidente della regione Sicilia. E devo dire che anche in questa settimana di quasi fine luglio, la penultima settimana di luglio, sì. col caldo che c'è, abbiamo litigato in televisione. Sì. Sempre, peraltro, con la stessa giornalista, non si capisce perché. Francesca Barra, la sette in onda, perché attrae... litigano tutti con Francesca Barra? Allora, intanto sentiamo la lite con Rosario sì, Crocetta. Sentiamo, e perché poi, anche vabbè... Feltri, sì, poi sì, l'altro un po chi tutti. Era stato? Salvini, no? No, ma anche il suo co-conduttrice ogni tanto, il suo co-conduttore. Sì, però i co-conduttori sempre dalle conduttrici vengono prendono un po', sì, vengono un po' maltrattati, io mi rendo conto, lo vivo. Fonderai un sindacato. Sì, sindacato. Noi spalle maschili. Giusto, mi pare giusto, potete difendervi. No, voi spalle, adesso lo dico per me. Allora, sentiamo. Riporto all'ordine Daniele Bellasio per sentire un po' cosa è successo in onda sulla 7, il personaggio della settimana, Rosario Crocetta. Ora io, scusi, no, ma lei io è quella che qualcuno le abbia non potuto... la conosco, non ho mai sentito quelle frasi, né penso sinceramente che Tutino possa essere uno stragista, può l'hanno essere arrestato. Uno che ha combinato, ha fatto... è sì, stato arrestato ed è forse questo scusi, il motivo per cui Lucia Borsellino si è dimessa. Ma non per strage, signora! No, certo! Non per strage, ma... signora! Sì, l'hanno arrestato! Non abbiamo però dicono, chiarito il suo rapporto perché con dicono Tutino. Che invece di fare sei nasi per ragioni necessarie e le ha fatte per ragioni estetiche. Mi pare una cosa completamente diversa. Presidente, no, mi credo perdoni. Che tutti si chiedano di questo rapporto con Tutino che è stato arrestato ed è poi il motivo. Era il mio medico, ci si fida solo di tre persone, il proprio medico, il proprio confessore e il proprio avvocato. Il mio confessore una volta quando dissi che la mia Presidente mi perdoni, le posso fare una domanda? Mi sconfessò. Presidente mi perdoni. Il mio medico mi ha accompagnato in tutti i colori, spero che non mi traisca il mio avvocato. Presidente mi perdoni. Ma chi si fida del suo medico? Beh, devo dire che l'affermazione è stato arrestato lì e però Crocetta ha un po' avuto gioco facile ad arrabbiarsi perché lei insomma... Ma lei però non aveva detto che era stato arrestato per strage. Ma poi capisco tutto anche, voglio dire, umanamente deve essere difficile affrontare le situazioni che sta affrontando il Presidente della Regione Sicilia. Però in televisione, ma perché ci si arrabbia così tanto? Cioè in altri paesi si dicono accuse ben più gravi e poi il talk show va avanti anche con una sorta... Boh, non lo so. A me pare che... riflessione che vorrei vorrei siano fare un po' alti i toni delle litigate, come se esatto, forse il caldo peggiora. Altra riflessione che vorrei fare però è: se una cosa non la sentiamo e non la vediamo, non esiste. Allora, ovviamente noi adesso vorremmo sentire tutti, o perlomeno vorrebbe sentirlo Crocetta, l'audio di quell'intercettazione. No, esiste, e se il procuratore dice che non esiste, lui dice: se c'è, fatemelo sentire. Sì, perché, però il procuratore dice che non esiste, quindi. Cioè. E invece qui, se lo sentissimo, se vedessimo qualcosa, saremmo sicuri di quello che succede, perché ormai tutto viene ogni notizia viene corredata da audio e video. Perché lo dico? Perché l'altra notizia di questa settimana, l'altro protagonista di questa settimana è la città di Roma. La città di Roma, sì, della quale diciamo del mese, degli ultimi sei mesi, diciamo che se ne parla moltissimo anche questa settimana. In particolare settimana, proprio della metropolitana di Roma si parla troppo spesso, forse. Ecco, qui invece la testimonianza c'è, la mostriamo alla radio, sì, solo per qualche secondo, perché purtroppo, insomma, non è facile intuire le immagini. Beh, ma l'hanno ascoltando visto, l'hanno visto. Ma ci sta tutte le porte. Ma questo c'è sta più per culo, no? Allora, la linea B della metropolitana di Roma, tratto Termini Castro Pretorio, con una porta aperta. Sì. Io devo dire che i romani sono straordinari, perché qualcuno dice anche: vabbè, siamo più freschi, alcuni cercano sì, di prenderla, no, anche però un po'. Io, a parte il fatto che avrei avuto molta paura. No, voglio dire, è appena successo nella metropolitana di Roma un fatto drammatico poco tempo fa, e di nuovo ci sono problemi di questo tipo. Io capisco che governare una città grande come Roma è... Però se devo non dire difficile, che quasi questa cosa, però, non so. Video effettivamente postato sul profilo di Facebook del signor Nazareno Proietti. Diciamo che non si può dire che questa cosa non sia successa. No, perché è stata vista, è stata raccontata. Per concludere un po' i video che hanno fatto scalpore questa settimana, e anche un po' la vita delle città, perché certo, ci sono molto le città che stanno tornando in quest'estate. Andiamo ancora un po' più a sud, da Roma a Napoli, Parallelo Italia. Martedì sera, Rai 3, la seconda puntata del talk show condotto da Gianni Riotta, si è spostata a Napoli dopo la prima puntata. Nella piazza, Milano. In una bellissima, grande piazza. Una bellissima piazza, una bravissima cantante, Malika Ayan, che prova a esibirsi, ma è successo questo. Scusatemi. Perdona, io sono quella che cerca di parlare in pubblico il meno possibile, perché sbaglio sempre a dire qualcosa. Però, accidenti, è tutto molto bizzarro. Io, perdonatemi, ma non me la sento. Se c'è qualcuno di molto arrabbiato, io non so perché quelle persone siano molto arrabbiate. Ho sentito tanti scambiare il proprio punto di vista, e mi trovo in mezzo. Quello che ho imparato io oggi sull'Italia è: cerchiamo di guardare sempre intorno chi non c'entra niente e finisce nel mezzo. Beh, povera Malika, lei doveva esibirsi, peraltro era praticamente il termine della trasmissione, ci sono stati questi contestatori, una bottiglia. Una bottiglia di plastica. Sul palco, Riotta è saltato e ha criticato anche le forze dell'ordine, che non sono riuscite in quella fase a tenere l'ordine in piazza. Certo, Malika ha usato parole giustissime. Malika è stata bravissima, ha affrontato anche il giorno la situazione. Dopo, poi Malika, che è una ragazza veramente deliziosa, oltre che una bravissima artista, ha scritto: nessuno mi ha preso a bottigliate, come ho letto in giro, ho visto una bottiglia di plastica sfiorare Brando e ho visto contestatori e polizia correre, il pubblico dentro la transenna attonito e spaventato. Quando ho percepito un clima teso e surreale, mi sembrava di estremo cattivo gusto rimanere sul palco a favore di camera. Nessuna indignazione, mi sentivo solo un filo fuori luogo. Se fossi rimasta lì a finire di fare il mio lavoro, forse non se ne sarebbe accorto nessuno. Devo dire che già sentirsi fuori luogo... Sì, poi in realtà il suo volto tradiva una certa preoccupazione, giustamente, sì, anche perché uno è lì per lavorare e non riesce. Brutta cosa, non mi è piaciuta per niente. Sì. Ci ritroviamo tra poco, perché c'è l'appuntamento per il traffico, un argomento delicato. Qualcosa però di... è vissuto anche sui social network, questo argomento. Insomma, sì, parleremo di Suruk. Parleremo di Turchia tra poco, sì, dopo le indicazioni per il traffico. RadioTube. abbiamo parlato di storie delicate nel primo blocco di RadioTube, anche se è l'ultima puntata prima delle vacanze, insomma, stiamo affrontando temi. No, ma è giusto, abbiamo deciso di parlare di quello che questa settimana davvero in rete era successo. Ma sì, non abbiamo fatto una puntata balneare, ci concederemo qualcosa. Meglio di. Questa settimana non si può non parlare di quello che è successo in Turchia. L'abbiamo viste tutte le immagini. L'esplosione è avvenuta davanti al centro culturale Marassuruç. Ma sai mica tanto? Dici che non l'hanno vista. Ma sai mica tanto? Perché queste immagini non sono state viste poi così tanto? Allora facciamo una cosa. Mostriamo alla radio. E tra l'altro sono immagini che proprio più che viste vanno ascoltate. Ecco qui allora l'audio di quelle immagini che sono arrivate dalla Turchia, da Suruç. Ragazzi, membri della Federazione dell'Associazione dei Giovani Socialisti, dovevano partire con una spedizione estiva per contribuire alla ricostruzione di Kobane, che si trova proprio oltre al confine rispetto a Suruç in territorio siriano, rispetto alla Turchia. Hai ragione Daniele, già solo l'audio ci racconta esattamente quello che è successo. Quello che è successo è che c'erano dei ragazzi che volevano ricostruire una città partendo peraltro da una cosa simbolica ma molto importante come una biblioteca, un centro culturale, qualcosa di questo tipo, che festeggiavano. Un kamikaze molto giovane ha fatto una strage, però facciamoci raccontare da chi sa che cosa sta succedendo lì. Che cosa sta succedendo? Quei ragazzi curdi così vicini a noi è il titolo che è stato dato dalla Stampa a uno dei suoi commenti, inviata del quotidiano La Stampa, Francesca Paci. Buonasera Francesca. Buonasera a tutti. Mi sembra che queste immagini siano rimaste impresse nella nostra memoria e che abbiano dato ancora più valore all'impegno di questi ragazzi e ci abbiano fatto capire ancora di più quello che sta succedendo da quelle parti, Francesca. Guarda, il lavoro che abbiamo fatto, che abbiamo deciso di fare quel giorno con La Stampa, perché veramente sembrava doveroso, è andare a cercare di ricostruire la storia di questi ragazzi che, come avete detto voi, essendo ragazzi normali, cioè non essendo leader politici, non essendo attivisti noti in una qualche maniera, avevano le loro storie, le loro vite scritte nei social, cioè facevano tutte quelle cose che, andandole a guardare, mi è venuto in mente a la nostra meglio gioventù, mi è venuto in mente agli anni dell'obiezione di coscienza, che è legge del 71, e negli anni 80, 90 c'erano tutti questi ragazzi, adesso la leva non c'è più in Italia, che andavano a fare servizio civile con il WWF o quant'altro. Ecco, la normalità di questi ragazzi, che quindi non avevano ambizioni belligeranti, mi colpiva che molti di loro erano iscritti a legge, e da legge viene anche quello che era e che è in questo momento per tutta una fetta di popolazione turca, ma anche curda, ma anche turca, l'esponente del Mirtas, l'avvocato, il giovane avvocato che ha vinto, ha avuto un successo inaspettato e importantissimo alle ultime elezioni con l'HDP, e che è riuscito ad avere questo successo mettendo insieme il voto di non soltanto dei curdi, come lui è curdo, ma di tanta parte di Turchia laica, gli eredi di Taksim, le donne, le minoranze, anche gli omosessuali e quant'altro. Allora, questa normalità, la normalità di questi giovani, ha due punti molto importanti. Il primo, che fa sorprendentemente paura la Turchia, che infatti l'altro ieri, mi sembra, a questo punto, a un certo punto ha oscurato Twitter per evitare, dicendo che insomma era bene non far vedere quelle immagini di così crude, ma di fatto in realtà per oscurare quello che stava diventando il mito di questi ragazzi. E questo è il primo punto, tant'è vero che il giorno successivo c'è stata notizia poi di un attentato a circa 150 chilometri da Suruç contro due poliziotti, e si è capito bene se sia stato o meno rivendicato dal PKK, il Partito dei Lavoratori Curdi, che sembrava invece fino a poco fa essere intenzionato ad una tregua. Quindi c'è questo fronte, cioè c'è il fronte curdo all'interno di una Turchia che ha giocato a lungo ambiguamente con le frontiere, con la Siria e quindi con i vari gruppi a vario titolo legato con lo Stato Islamico, e la crescente richiesta dei turchi, che siccome sono gli unici che di fatto stanno combattendo sul territorio una guerra che tutti gli strateghi militari dicono non si vince dal al cielo ma sul territorio, si teme che a un certo punto possano chiedere, e quanto più chiedono normalmente, quindi senza armi in mano, quanto più fanno paura la Turchia. E questo era il primo dato. Il secondo, che a me colpiva ancora di più, è che questi giovani sono l'altra faccia dei giovani europei che vanno a combattere con lo Stato islamico, perché convertiti all'Islam, perché seconde o terze generazioni in qualche modo interiormente in guerra con l'Occidente, e della stessa loro età era l'attentatore, è un ragazzo, uno studente anche lui di nazionalità curda, e perché quando io ho lavorato anche alle storie di questi foreign fighters che partono dalle nostre capitali e vanno a combattere in Siria, in fondo nel loro delirio ci sono ambizioni ideali di cui loro sono convinti follemente, come ideali erano le ambizioni dai ragazzi dell'altra parte. E a me veniva in mente che siccome in alcuni casi questi islamisti europei che vanno a combattere con lo Stato islamico hanno menzionato la guerra civile spagnola, dicendo che loro vanno lì a combattere contro un tiranno che è sostenuto a vario titolo da varie forze occidentali, e quindi partono con queste brigate internazionali eccetera, a me è venuto in mente che in realtà sono molto più i ragazzi curdi, quelli che assomigliano alle brigate internazionali che nella guerra civile spagnola combattevano contro Franco e contro il totalitarismo, e tra questi ragazzi curdi c'è di fatto anche qualche occidentale che si arruola, ma in proporzione tragicamente sono molti meno di quelli che vanno invece a combattere con lo Stato islamico. Allora io mi chiedevo, ma non è che questi ragazzi curdi ci possano ricordare il senso, il valore della libertà, il valore della tolleranza, del sostegno, della solidarietà che loro in qualche modo hanno guardato a noi per rafforzare, anche noi abbiamo in questo momento un pochino dimenticato. Infatti parli di passioni sbiadite, ci ricordano delle passioni sbiadite che poi forse sono le nostre, che rispetto alle loro hanno perso un po' di colore. Francesca, hai parlato del bando a Twitter, non è la prima volta che Erdogan mostra di avere, non so cosa dire, paura, di avere un rapporto difficile con i social network? No, in realtà nonostante sia la Turchia abbia mostrato negli ultimi anni, dopo Taksim in particolare, un volto assai diverso di quello che tanti, me in primis, avevano visto nel sostenere l'ingresso della Turchia in Europa per tanti anni, anche nei primi due mandati di Erdogan e del suo partito. E in realtà in questo rapporto controverso con i social media in particolare mostra il lato più inquietante, perché poi cerca sempre di giustificarlo. Li avevano oscurati anche, mi sembra, a gennaio, all'inizio dell'anno, quando c'era stato una specie di attentato, erano stati presi ostaggio nella capitale di un edificio governativo, e quindi diceva è meglio silenziare i social network per non rilanciare la propaganda dei terroristi. In realtà i social network sono stati silenziati anche durante i giorni della protesta di Taksim. In realtà Erdogan quello che fa è gioca con il senso che essendoci stato un fortissimo giro di vite sui giornali, sulla stampa, viaggia sui social network. Il problema dei social network è che riescono a rendere emozionale quello che un tempo veniva vista come una cosa per analisti politici, no? Cioè, certo. Il fatto che noi ci sentiamo vicini ai ragazzi di Suruk perché vediamo le loro foto prese da Facebook, e chiaramente può anche essere visto come qualcosa di negativo, perché, Marta, ne parlavamo anche prima, no? Molto spesso ci dimentichiamo dei morti perché non sono su Facebook. Sì, io in maniera un po' garbata, però l'hai detto, emotiva, forse al momento ti ho subito commentato, muoiono anche quelli che non si sono, esatto, fatti selfie. Però il problema è che per tirare fuori quelle passioni sbiadite di cui si parlava prima, noi abbiamo anche, lo dobbiamo ammettere, bisogno dei simboli. I social network li creano e li colorano di emozioni. Per questo stanno tanto antipatici ai regimi autoritari, perché i regimi autoritari preferiscono ragionamenti da think tank molto profondi, preferiscono che la gente non si appassioni a dei simboli. Poi magari sto esagerando, Francesca, dimmi tu, però secondo me questo ruolo dei social network sta anche cambiando il modo di raccontare la politica estera e dei fronti che Kobane un tempo sarebbe stata una parola, come dire, astrusa. Certo, e non solo, è stata per molti mesi astrusa prima, che quando si combatteva soltanto senza che i ragazzi la raccontassero. ma anche adesso. E poi in aggiunta a tutto ciò i social network, ancorché sembrino e abbiano comunque di fatto una struttura estemporanea, in realtà sopravvivono assai più lungo di quello che giustissimo, i regimi della fattispecie vogliono, cioè sembrano la cosa dove tu scrivi una roba, mordi e fuggi, poi magari passi ad altro e quel post di Facebook scompare, no? Cioè tante volte noi postiamo una cosa e poi dopo 2 secondi già non c'è più perché è stata scavalcata da 100.000 cose, quindi c'è cioè, questa stessa cosa con Twitter, con Instagram eccetera, e quindi hanno questa questa parvenza di estemporaneità. In realtà restano, infatti quando Erdogan ha silenziato le immagini continuavano a fare il giro del mondo moltiplicandosi. Francesca, mi piacerebbe veramente chiederti mille altre cose, ma il nostro il tempo è ai noi tiranno, quindi ti chiediamo nella prossima stagione, sperando di poter parlare anche di guarda, no, il tormentone, l'ultima puntata della stagione di YouTube, ma sperando di poter poter raccontare sempre più storie di ragazzi che combattono, che lottano e che ottengono quello che desiderano, e sempre meno brutte storie. Speriamo di poterti avere ancora con noi, ci farebbe veramente piacere. Le storie, contrariamente al pessimismo dei giornalisti, sono quelle che invece i lettori amano. Certo. È così. Lettori, ascoltatori, c'è cioè quant'altro, verissimo. Sì, vero. Sì, storico. Grazie Francesca Paci. Buon lavoro. Grazie. Ciao. Francesca Paci, inviato della stampa, grazie per essere stata con noi. Una pausa per sì, forza, tempo è tiranno, ma pochissimo e saremo ancora insieme a Radio TV. YouTube. E rieccoci insieme dopo una breve pausa per quest'ultima mezz'ora di RadioTube. Io sono un po' emozionata, l'ultima, Daniele. Ultimissima dell'anno, sì, l'ultima ultimissima, sì, però sì. Possiamo dire @MartaCagnola, @DiBellasio i nostri account di Twitter, certo. Cancelletto RadioTube, l'hashtag della trasmissione. Sì, anche perché la scorsa settimana abbiamo parlato di Fiorello che avrebbe spento i social per un po'. È andato in vacanza? Credo che stia andando in vacanza. Stia andando in vacanza. Lui spegne i social in vacanza, io no. Quindi io devo ancora decidere. Ci devo pensare. Sì. Tanto c'è tempo. Vado il 18 di agosto. Ma manca vabbè, tanto tempo. Allora deciderai. Però per quest'ultima trasmissione abbiamo deciso. Sì. Allora, intanto io devo fare i compiti delle vacanze, sai? Sì. Cosa devi dire? Devo studiare per diventare una brava conduttrice. E quindi hai deciso adesso, dopo tanti anni di venerata carriera, di onorata carriera. Esatto. No, io mi sono sempre così ingenuamente e un po' ottimisticamente ispirata ad alcune grandi, posso dire una cosa, più che brave conduttrici, brave giornaliste, donne eleganti, posso dire così. Lo sapevo che arrivavi anche a quell'aspetto, la professionalità per te è anche eleganza, che è giusto, sì, molto giusto. Sì, sì, e anzi, quindi prima di tutto quello. Allora, io vorrei fare un saltino nel passato. Breve? Insomma, siamo nel 1959. Sì. Un saltino nel passato, la voce la riconoscete perché è quella di Mike Bongiorno, che presentava così. Sono le 16.30, fra pochi istanti scenderanno in campo 2 comunità italiane alla conquista del titolo di campione di quiz e di giochi televisivi del giovedì sera. Le comunità sono Giussano in provincia di Milano e Saronno in provincia di Varese. Tra pochi istanti Saronno e Giussano alla ribalta di Campanile Sera. Beh, Campanile Sera, si sfidavano 2 paesi. Non ho fatto apposta a prendere un audio di un paese della Brianza e di un... No, però tanto non c'era Vimercate. Si sfidavano i paesi e si scopriva l'Italia. Si scopriva l'Italia, perché in quegli anni la TV doveva far conoscere l'Italia. Anche un po' unirla. Vabbè, e insegnare l'italiano, ma questo è un discorso la seconda cosa, diciamo che questo è ancora complicato. Lunghissimo, caro Daniele. Ma per insegnare l'italiano ci volevano dei conduttori molto bravi. E che sapessero parlare italiano. E adesso è anche un po' meno scontato. Esatto. Vabbè, abbiamo fatto un lungo preambolo. Però, siccome abbiamo parlato di un'Italia che non ha accolto bene la televisione in questa puntata, ai noi invece l'Italia di Campanile Sera era tutt'altra cosa. C'erano degli inviati bravissimi, c'era il grandissimo Enzo Tortora, che io ho sempre amato e amo ancora tantissimo, e poi c'era appunto una delle donne più eleganti, la donna più elegante, posso dirlo, della televisione italiana? Posso dirlo, lo dico io, ma possiamo salutarla direttamente. Buonasera, la signora Enza Sampò. Buonasera. buonasera. Io già sento buonasera e mi emoziono, signora Sampo. La vociaccia, il Sampese. Il Sampese. Nel settore dell'automobilismo, ad una bella macchina si accoppia una donna bella. E il quadro è perfetto. A Villa d'Este e a Villa Erba a Cernobbio sul lago di Como sfilano in passerella le auto. Sono eleganti e affascinanti come ballerine di gran classe. Le presenta in lingua sampese Ensa Zampò. Questo Sampese era vero? Era una presa in giro di Alighiero Noschese? Perché c'era anche quello, del Sampese. Ma a me avevano detto che proprio venne fuori con Campanile Sera, perché erano linee non radiofoniche ma telefoniche, adesso forse dico delle stupidaggini, insomma, che la mia voce, che è una voce bassa e non potente come quella dei miei colleghi uomini, veniva comunque con un effetto diverso, insomma un effetto strano. E poi c'era un altro grave difetto, che invece poi in futuro è diventato un pregio per i conduttori, che parlavo troppo in fretta, mi continuavano a dire parla più adagio, parli troppo in fretta, e invece adesso dopo un po' di anni era un pregio parlare in fretta. Aveva previsto il futuro, signora Sampo. Ma com'era quell'Italia che lei si trovava davanti, nei paesini di Campanile Sera? Ma guardi, il merito di Campanile Sera secondo me con la piazza è che ha mostrato un'Italia della provincia non provinciale, cioè noi avevamo i giochi in piazza e poi c'era il famoso pensatoio dove si riunivano gli intellettuali del posto e davano le risposte su vari argomenti, e venne fuori un'Italia colta, un'Italia appunto non provinciale, di gente, imprenditori. Erano poi gli anni 60, quindi era il momento del boom, ognuno pensava di avere un futuro brillante, di poterselo costruire, quindi erano tutti molto attivi, gli imprenditori, i giovani viaggiavano, cominciavano appena allora ma a viaggiare, e poi c'erano le famiglie, ci si collegava con le famiglie e c'erano questi tinelli, quelli col buffet contro buffet, insomma, che poi con i centrini sopra il televisore e la gondola di Venezia. Brava. Ed era proprio una specie, mentre l'Italia è più rurale e era stata raccontata in modo straordinario lì da un punto di vista proprio registico, intellettuale, questa diciamo che era nazional popolare, era quella degli anni precedenti di Soldati e di Gregoretti. Ecco, ma a lei viene riconosciuto da tutti i critici della televisione il fatto di essere stata la prima conduttrice, giornalista, autrice di trasmissioni televisive della televisione italiana. Prima la donna in televisione era essenzialmente una valletta, sì, una spalla del conduttore. Lei è stata la prima. O un'annunciatrice. O un'annunciatrice. Che erano proprio le signore molto amate dal pubblico. Ma è stato con Campanile Sera, perché prima io facevo una trasmissione per ragazzi a Torino, poi ho fatto una trasmissione per le donne a Milano, dove ero solo conduttrice con tanto di copione. Poi ci fu Sanremo, dove ero comunque co-conduttrice con Paolo Ferrari, ed ero comunque un passo indietro, insomma, rispetto al presentatore uomo. Fu Piero Turchetti, schierato le trombe. Turchetti disse: ma perché non proviamo con una donna? Io ho conosciuto una ragazza che mi sembra una sportiva, di si trattare di andare in una piazza. Allora credo il fatto che portassi i pantaloni, che avessi l'aria sportiva, stata l'unico attu che mi ha aperto le porte di Campanile Sera. Insomma. Allora, forse non l'unico, però certo una bella ventata di modernità. Lei, signora Sampo, ha citato Sanremo. Io ho scovato un pezzettino della premiazione del Sanremo 1960 e ho molto sorriso perché ascoltiamo questo brevissimo estratto. Canzone prima classificata, romantica. Con l'orchestra Angelini canta Toni Dall'Arco. Bambina bella, sono l'ultimo poeta che si ispira ad una stella. Allora, io mi sono sentita tutta la premiazione e speravo che il bellissimo, elegantissimo Paolo Ferrari le desse la possibilità di proclamare il vincitore. Invece niente, lui ha proclamato tu. Ma stai scherzando? Niente proprio, ma speravo almeno per cavallo. Niente. Dovevano fare un passo indietro, non c'è niente da fare. Però, per esempio, anche lì ero stata sgridata perché siccome c'era una clac fornita, credo, dalle case discografiche, di interrompere gli applausi. Infatti vedi che parlo sugli applausi, lì annuncio dall'ara sugli applausi. Io me ne fregavo, andavo. Avevo una sicurezza che è invidiabile, la sicurezza che avevo allora. A me allora sembrava proprio di non avere paura di niente. Adesso non sarebbe più così. E però insomma così era, se non fosse stato per Campanile Sera, dove appunto calcola che avevo 20 anni su una piazza, mi arrivavano anche pizzicotti nel sedere e dovevo essere scortato dai carabinieri spesso. E calcola che e lì mi trovai senza autori, perché lì non andavo mica in giro con gli autori, andavo da sola, mi prendevo tutte le scartoffie dalla Proloco per informarmi sulla cittadina che stavamo rappresentando e facevo tutto da sola. E io devo dire la verità, di quel periodo ho un bellissimo ricordo, ma anche traumatico, perché arrivavano lettere di protesta terrificanti. Perché? Con disegni offensivi, perché stai a casa a fare la calzetta. Comunque, signora Sampole, dico che succede ancora, sa, anche nel 2015, ai noi. Sì. Ma che cosa, i pizzicotti? Speriamo un po' meno. Ma purtroppo le letteracce più dei pizzicotti. Ecco, ma a proposito, come sono, secondo Enza Sampole, i conduttori di oggi, e in particolare come sono le conduttrici donne di oggi? Ma guardi, io ho una grande come dire attenzione a tutte le donne, per esempio della Sette. Trovo che tutte le giornaliste o comunque le conduttrici siano donne che rappresentano le donne di oggi, insomma, moderne, preparate, grintose, ma nel modo giusto, non aggressive. Invece, non so, direi te, la Gabanelli, la Digati, ecco, per il resto le donne alla conduzione sono, varietà, ma insomma io non lo frequento, non lo so giudicare, oppure quelle del pomeriggio, che però è tutta cronaca nera, si somigliano Canale 5 e Rai 1 sugli argomenti trattati nello stesso momento proprio, se si parla di Elena Ceste, ma manco cambiando l'ordine della scaletta, nello stesso momento c'è la Ceste su 1 e la Ceste su 5. Trovo per esempio la D'Urso bravissima, la Parodi trovo che rappresenti la figura femminile di Rai 1, ma insomma non so, non mi entusiasma quel tipo di cose, di personalità, di presenza televisiva, perché non è una novità. E la De Filippi? E la De Filippi è qualcosa di più, cioè la De Filippi non è solo conduttrice e autrice, lei è proprio produttore, è manager, cioè lei ha l'occhio al prodotto. È un manager ed è una figura assolutamente nuova, mi pare di poter dire. Che occhio moderno, che sguardo moderno ancora. Bello. Signora Sampo, davvero. Io rivorrei anche un po' la signora Sampo in TV. Mi piacerebbe rivederla. Sai che io pensavo che andando, per così dire, in pensione avrei avuto. Non ce l'ho, è molto strana questa cosa. Sai, sono stati 54 anni, non ne potevo più. Posso capire. Poi soprattutto, sa cos'è? Devo essere sincera, che a una certa età è tutto così faticoso, il trucco, il parrucco, il vestirti, non ti piace mai veramente, è anche un fatto un po' di... ho già dato, come si dice. Signora Sampo, noi alla radio non abbiamo problema di trucco e parrucco, quindi noi l'aspettiamo qui nei nostri studi, quando vuole venire, quando vuole. Anche struccata, grazie, noi andiamo bene. Grazie ancora. Grazie per essere grazie, stata con serata. Noi. E buona vita a tutti, un bacione. A presto, speriamo. Grazie. Daniele, noi ci ritroviamo tra dire. Poco. Io sono ancora emozionata dopo e poi draft, davvero. Non che... possiamo più lanciare nulla. No, possiamo no, più no, tu no, almeno quell'eleganza, sei una conduttrice quella... vera. Io dai, proprio. Ci prendiamo un momento di respiro e di pausa. Traffico. Tra poco. YouTube. Beh, Daniele, dobbiamo dirlo, è l'ultimo blocco di RadioTube, poi la trasmissione va in vacanza. Io non ancora, ma la trasmissione va in vacanza. Neanch'io, per neanch'io. La verità. Ti andiamo avanti ancora un po' a lavorare. Ogni tanto di sabato alle 5 commentiamo delle cose così. Ah, così per fare una quando ho malinconia, tipo. Ma se vuoi possiamo anche fare le scalette lo stesso. Sì, anche ma se possiamo non farle anche con sui social network con i radioascoltatori. Ah, ma certo, durante... possiamo fare. Certo. Marta Cagnola, et Di Bellasio, hashtag RadioTube. Possiamo fare delle puntate su Periscope, non lo so. Bello come idea. Io Periscope delle cose parlando con esatto, delle cose. Senti, vabbè, mi sembra un po' tutto complicato. Molto complicato. Mi sembra ci un... prendiamo, ci rinfreschiamo le idee. Dai. Questa, l'ultimo blocco, sappiatelo, radioascoltatori, è il blocco di cui io so meno dello zero di cui so negli altri blocchi. Io decido di fare sentire delle cose a Daniele che non le ha mai sentite. Quindi io declino ogni mia responsabilità. Ti ricordi Show? No, allora erano solo ricordo. Dei ragazzi che dici, hanno un canale capisco, di YouTube. Hanno un canale di YouTube con 670.000 iscritti, not bad, The Show, e fanno esperimenti sociali e scherzi. Ah, interviste. Sì, fanno delle sorte di candid camera, però per dimostrare delle cose. Esatto. Devo dire che questa volta sono stati molto carini perché hanno fatto questo esperimento. Io guardo anche in regia Giangio perché potrebbe servire anche a te se vai al mare. Vai in vacanza, Giangio? Adesso glielo chiediamo, ce lo facciamo dire da Giangio in regia. No, non va al non mare va, perché nessuno. Questo video dimostra come ottenere il numero di qualsiasi ragazza in spiaggia. Ah, scientifici. Vediamo. Eccoli qua. Potrebbe interessare. Come fanno i The Show. Ragazze, è vostro il cane? No. Perché l'abbiamo non l'ho trovato in giro, non so di chi sia. Sto cercando di chiamare, ma le ragazze hanno il cellulare senza soldi. Riusciamo a fare un colpo di telefono, che ce l'ho in albergo. Prova un secondo, allora 33176. E l'avete trovato qui adesso, cioè correva da solo. Ah. Ah, è il tuo. Sì, volevo il tuo numero di telefono. Ciao ragazze, attenzione, ho bisogno della vostra completa attenzione in questo esatto momento. So che state mangiando da un momento delicato, ma io sono un giovane mago. Allora, questo è un mazzo di carte normalissimo, vuoi controllarlo? Non credo, per favore, prendilo, scegli una carta che vuoi tu, qualsiasi. Adesso, insieme alla tua amica, devi rendere questa carta riconoscibile, cioè deve essere solo tua. Ci scrivi il tuo nome e il tuo numero di telefono. Ok, adesso io con la mia forza della mente, perfetto. Ci sentiamo stasera allora, ti chiamo dopo, ciao. Vabbè, ma sono carinissimi. Sì, ma ci vuole il cane però. No, il primo il cane, il secondo si finge mago. Sì, è più, forse, non lo so. Però ce n'è un altro. Io sono impazzita, sono geniali. Geniali. Perché a un certo punto uno di loro si veste da prete. Ragazze, scusate, per caso voi avete visto un altro parroco che passava di qua con dei bambini? Voi non è che una gentilezza, potete fare uno squillo al mio, all'altro parroco se vi do? È Don Alessio, grazie mille. Digli che Don Alessandro è qui tra i bagni, e non so dove sono io, perché è mezz'ora che giro. Ma sta già chiamando? Aspetta. Eccolo qua, perfetto. Ok, ora mi dai il tuo nome, così almeno il numero ce l'ho. Allora, mi dai il tuo nome e i tuoi impegni per stasera. Dai che ci diamo da fare, ragazze. E poi dicono che la chiesa non piace più ai giovani. Dai carini. No, però allora devi sapere che siccome lui è molto carino, quando lui si presenta come Don Alessio, Don Alessandro, non come so quale dei due, le ragazze ridacchiano tantissimo perché sicuramente pensano: ah, guarda com'è carino. Sì. Quindi erano contente di aver dato il numero di telefono. Secondo me sì, erano contente. Gliel'avrebbero dato comunque, anche se glielo chiedevo. Erano contente che era uno scherzo. Erano contente che fosse uno scherzo perché così non era un prete. Quindi gli hanno mandato poi l'SMS. Molto carini. Al mare io. No, infatti, oltre che l'estate, infatti anch'io che non vado al mare e mi perdo queste occasioni. Accidenti. Allora, altro video estivo, i Pantellas. Abbiamo parlato non moltissimo avevi tirato di ancora loro. Fuori i Pantellas. Non li abbiamo mai chiamati, quindi la prossima stagione chiameremo Obiettivo, i Pantellas. Da settembre. O ai Pantellas, non lo so, perché lei è piccolina come iPad. iPhone. 1.187.000 iscritti. Cioè che magari quando abbiamo finito questa frase sono più, già diventati più dello share di gran parte delle trasmissioni. Ma pazzeschi, guarda, sono veramente per di più. Sì, cosa hanno fatto? Un video che ha 750.000 visualizzazioni in una settimana. Cosa fai in estate? Allora, il video è molto lungo perché sono circa 6 minuti. Guardiamolo tutti, vi salutiamo, ciao. No, ho preso dei brevissimi estratti e mi sono molto divertita a vedere cosa fanno in estate i Pantellas. Ok, adesso fingiamo di stare male così viene la bagnina a salvarci. Guardala. Ma è meglio di Pamela Anderson. Sì, facciamolo subito, facciamolo. Adesso, dai, dai. Oh mio Dio, ma sono in pericolo. Mitch, aiutali. Madonna mia, ma che caldo fa. Ice Bucket Challenge? Ice Bucket Challenge. Dovevano farla quest'anno. Avrebbero tirato su il doppio, anzi il triplo. Ok, Jacopo, siamo a metà luglio. Entro metà agosto devi perdere 10 kg, così dimagrirai ed eliminerai questo fisico da sollevatore di grappe. Dai che ce la fai! Dai che ce la facciamo tutti insieme! Dai! E anche quest'anno userò la muta da sub. E anche quest'anno userò la muta da sub. Devo dire che il fisico da sollevatore di grappe mi è piaciuto tantissimo. Moltissimo. Però tutto sul mare si parla. C'è la gente che va in vacanza anche in altri. Lo so, io non vado al mare da tanti anni. Sì, però appunto, vabbè, piace. Questa discriminazione. Non lo so come mai. Però cosa si fa d'estate? E come Maccio Capatonda ha fatto l'ice bucket challenge, sì, solo no, perché roba, aveva freddo. Anche perché l'anno scorso caldo. Invece non era tanto caldo. Eh no, l'anno scorso non faceva tanto caldo, quindi valeva di più. Beh, insomma, molto carini. Tra l'altro stavo guardando le visualizzazioni dei Pantellas, vabbè, avevano fatto 2 settimane fa single versus fidanzati 1 milione di visualizzazioni, ma hanno anche dei video da 5 milioni di visualizzazioni. Davvero bravi. Chissà poi con Periscope quando arriveranno l'equivalente degli youtuber. Sai che ho scoperto Periscope? Di cosa mi piace di Periscope finalmente. Dopo settimane ho deciso finalmente. Cosa mi piace di Periscope, te I lo cuoricini, dico. I cuoricini, che puoi mettere i cuoricini. No, ho deciso che i miei Periscope preferiti sono quelli dei filmini delle vacanze. Cioè a me piace quando magari come sono lì che lavoro. Super 8 facevano sì, quella magari roba. Sono lì che lavoro. Poi l'hanno riversato negli VHS, poi l'hanno riversato nel DVD. Adesso li devono. Ma no, MP3. Ogni volta. C'è mio padre fantastico. Che corre da un riversatore all'altro da 15 povero, anni. Povero, sempre della stessa Bellasio. Festa di compleanno povero. A 5 anni. Sempre tu, lo stesso. Voglio sì, vedere. Beh, certo. Ah, avevo i capelli, sai. Fantastico. Allora corromperò la famiglia per avere le immagini della festa di compleanno. No, mi piacciono i filmini delle vacanze perché magari sono lì che lavoro e mi appare qualcuno che ha Ibiza, qualcuno. E mi metto lì, guardo un po' e sei sogno invidiosa, un po'. Sei lo dici perché sei invidiosa. No, no, no. Sei lì che. Com'è no, l'equivalente no, di invidia? No, invece mi piace vedere dei bei paesaggi. Allora, vorrei concludere perché ho preso una decisione. Sì. Sai qual è la decisione che ho preso? Pareva che non ci fosse lo scherzo. No, ho ho deciso Cruciani? Che questo è il brano dell'estate. Ho deciso che hai il mio trovato il tormentone. Sì, il mio è questo qui. I gave into the fire. I know I should have fought it. At least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better, cause you don't wanna lie. And I know, and I know, and I know she gives you everything, but boy, I couldn't give it to you. And I know, and I know, and I know that you got everything, but I got nothing here without you. Ho deciso che per me il tormentone dell'estate è questo brano di Ariana Grande, che sai come si intitola? No, dov'è? One last time, una ultima volta, ma e no. Questa era l'ultima puntata. Vabbè, ma come dice, invece per me il tormentone è una qualunque canzone di Brunori, no? E come dice Brunori Sas, si può rinascere almeno 4 volte. Ah, va bene, e quindi facciamo che... Siccome questo è il secondo di come anno... Come quel famoso film, torna terzo, a settembre. Hai talmente sofferto che no! Ti lunghi 4-10 è sempre seconda, presente è quando sto con te. È la seconda stagione. È la quindi, seconda stagione. Vedremo, e non c'è due vedremo, senza il tre. Vedremo. Dai, dai, noi diamo appuntamento a settembre. Poi chi vi ora vedrà. Et Marta Cagnola, et Di Bellasio, Cancelletto Radio Tube. Intanto ringraziamo Giangio che ci ha fatto regia, che è stato con noi regia e anche un po' riso con quest'ultimo blocco. Con la lacrimuccia, con questo mio tormentone dell'estate. One last time. Facciamo per one last time i saluti? Sì, buona estate a tutti. Grazie di averci seguito. Ci sentiamo a settembre. I'm at least I'm being